Gentilissimi ascoltatori di Radio San Giuseppe, Ave Maria a tutti e ben ritrovati sulle frequenze della nostra web radio. Si avvicina l'inizio del mese di marzo, dedicato al nostro carissimo e straordinario santo, il più santo dei santi, e noi ci apprestiamo, ecco, a vivere questo mese nella santità e in una vera devozione a San Giuseppe. Continuando le nostre meditazioni sul più santo dei santi, alla scuola, dalla scorsa puntata, come ricorderete, del beato Bartolo Longo, questo suo aureo e devoto libretto dedicato al mese di marzo. La volta scorsa, se ricordate, io amo sempre iniziare le mie catechesi, le mie trasmissioni con un piccolo sunto delle puntate precedenti. Abbiamo meditato sul santo nome di San Giuseppe, vedendo anche, tra l'altro, come il discorso sul nome sia molto importante in ordine alla scelta del nome di battesimo e dell'eventuale aggiunta di più nomi al nome di battesimo, diciamo, principale, oppure a quello scelto all'anagrafe per i nostri figli, più altre sollecitazioni, ecco, derivanti dalla riflessione su questo santo e misterioso nome di San Giuseppe, no? Che vi ricordo, Yosef in ebraico significa accrescimento, oppure Dio aggiunge. Oggi apriamo un altro capitolo, appunto il secondo capitolo del libretto che ci accompagna nella nostra meditazione, che è dedicata all'infanzia di San Giuseppe. È chiaramente questo capitolo, potremmo chiamarlo un capitolo devoto, diciamo così, quindi che si basa sull'opinione comune che tutte le persone, diciamo così, di sana dottrina e di fede hanno ritenuto di San Giuseppe, no? Vi ricordate che la volta scorsa abbiamo visto che San Giuseppe è stato sicuramente preconfermato in grazia prima della nascita. Io ho avuto modo di esprimere la mia povera opinione personale, discutibilissima, che mi porta a voler pensare, ecco, pur che questa presantificazione di San Giuseppe sia stata immediatamente dopo il concepimento, quindi non qualche mese dopo, come qualche altro grande santo, tra cui, come sappiamo, il Vangelo di San Giovanni Battista. Evidentemente una persona che nasce in questo modo, piena di grazia non come la Madonna, quindi, però sicuramente già con un buon grado di grazia, e deve aver condotto un'infanzia santa, se è vero come è vero, se ricordate i Vangeli che ci dicono di San Giovanni Battista che fin dall'infanzia si ritirò in luoghi deserti conducendo vita, la potremmo definire ascetica, quindi vita di rigorosa penitenza e santità. La missione di San Giuseppe, come vedremo, era differente, quindi non è andato per spelonche o per deserti, non era necessario, diciamo così, per lui uno stile austero di questo genere in vista della missione, come abbiamo visto, molto, capite bene in che senso, no? Tra virgolette, mondana, che doveva esplicitare, nel senso di una vita calata all'interno delle circostanze ordinarie della vita, pur nella straordinarietà della sua santità. Però qui il beato Bartolo Longo ci proporrà una serie di devoti pensieri che lasciano presagire, intuire, aprono qualche squarcio su quella che può essere stata l'infanzia indubbiamente piena di santità di questo straordinario, quanto non umile e nascosto uomo. Come già la volta scorsa, ecco, dopo questa breve nota introduttiva, io leggerei anzitutto di seguito il testo della meditazione del Beato, salvo poi riservarmi di tornarci per sottolineare, evidenziare qualche punto ed eventualmente approfondirlo in chiave, come sempre, catechetica. Quindi comincio a questo punto senza indugio la lettura. San Giuseppe si dona a Dio fin dall'infanzia. Ricolmo di rettissime grazie e benedizioni, Giuseppe offrì a Dio i suoi primi pensieri ed affetti, riconoscendo che egli era sulla terra solo per amare il Signore, adorarlo e servirlo. Fin dai suoi primi anni Giuseppe era dolce e pacifico, non fu mai veduto contendere coi compagni, la sua sincerità, la sua modestia, il suo candore erano meravigliosi. L'infanzia di Giuseppe scorse nell'innocenza, come il mattino di un giorno sereno. La sua adolescenza fu adorna di tutte le virtù convenevoli alla sua età. Egli aveva la pietà di Abele, l'ubbidienza di Isacco, la saggezza di Tobia, la castità dell'altro Giuseppe, figlio del patriarca Giacobbe, la fermezza di Daniele. Era insensibile ai più seducenti piaceri del secolo. Oh, quanto siamo lontani noi dall'esserci dati a Dio con quella prontezza che ammiriamo in Giuseppe. Quanti anni perduti per la nostra perfezione dal giorno in cui, giunti all'uso della ragione, dovevamo naturalmente farne omaggio a chi ce ne fece il gran dono. Quale uso abbiamo fatto dell'adolescenza, quella cara età della vita in cui nascono i fiori che devono portare i frutti al loro tempo? Ora non possiamo fare altro che ripetere con Agostino, convertito dalla grazia: bellezza eterna, bellezza sempre antica e sempre nuova, quanto tardi ti ho conosciuta, quanto tardai ad amarti. Recuperiamo il tempo perduto con quel fervore e quella perfezione di carità che moltiplica gesti d'amore in proporzione alle offese e che può, in un momento, col suo ardore, purgare tutta una vita piena di infedeltà. La grazia scendeva abbondante nell'anima di Giuseppe ed egli vi corrispondeva con grandissima fedeltà, avanzando rapidamente nel sentiero della virtù. Per la sua fedeltà nel corrispondere alla grazia, lo Spirito Santo fa di lui nel Vangelo il più bel elogio, chiamandolo uomo giusto. Osservate, dice San Girolamo, che egli meritò di essere chiamato giusto perché possedeva tutte le virtù perfettamente. Era giusto perché osservava religiosamente tutto ciò che la legge comandava, rendendo a Dio e agli uomini tutto ciò che era loro dovuto. L'anima nostra è stata armata con la stola vergine del battesimo. Come l'abbiamo custodita? Come siamo stati fedeli alla grazia e all'ispirazione di Dio? Se Dio domandasse a noi quello che ha voluto da San Giuseppe, allora comprenderemmo quanto fu meritoria la sua fedeltà. Anche noi sentiamo spesso una voce che dice: Gesù sarebbe contento se tu operassi in tal modo, se tu facessi il tal sacrificio. Quante volte dalla fedeltà ad una minima grazia dipende la nostra salvezza. Promettiamo a San Giuseppe che oggi faremo tutto quello che la nostra coscienza ci suggerirà per contentare Gesù. Tutte le nostre preghiere di questa giornata debbono essere dirette ad espiare le nostre passate infedeltà alla grazia e alle ispirazioni di Dio. Questo è il testo del Beato Bartolo Longo. Chiaramente cominciamo dalle ultime righe, mi permetto, dato che andiamo in onda in prima serata, ma per molti magari è l'ultimo appuntamento prima del riposo, che quest'ultima esortazione ce la portiamo a domani, quindi domani mattina, quando ci sveglieremo, cercheremo di promettere a San Giuseppe di cercare di fare tutto quello che la coscienza ci ispirerà per far contento Gesù. Adesso vedremo poi queste sono le sante ispirazioni, indirizzando le preghiere, quindi mettendo questa intenzione della giornata ad espiare le nostre passate infedeltà. Ora rileggiamo, ripercorriamo, vi sarete sicuramente accorti che ci sono dei punti molto molto delicati, molto importanti in questa meditazione. Io comincerei subito dall'inizio. Giuseppe ha offerto a Dio la primizia dei suoi pensieri, ecco, riconoscendo, punto assolutamente fondamentale, che egli era sulla terra solo per amare il Signore, adorarlo e servirlo. Vorrei far notare subito una cosa di importanza assolutamente fondamentale. Queste parole non sono riferite a preti, frati, suore, monaci e monache, come se ci fosse una elite di persone che si danno a Dio e la massa delle persone che a Dio non si danno. Oggi viviamo in tempi dove si continua, giustamente forse un po' troppo, a sviolinare il Concilio Vaticano II, però alcuni aspetti del Concilio Vaticano II, a mio avviso, fondamentalissimi. Io sono esperto della Costituzione sulla Chiesa, perché i miei studi, diciamo così, di teologia dogmatica sono stati polarizzati sulla Chiesa. C'è la Lumen Gentium, che non è messa in pratica da quasi nessuno. Perché nel quinto capitolo dice una cosa molto, molto semplice, fondamentale, che la vocazione alla santità è universale. Quindi chiamati alla santità sono tutti. Un operaio che lavora in fabbrica deve essere cosciente che sta sulla terra solo per amare il Signore, adorarlo e servirlo. Attenzione, solo amare il Signore, adorarlo e servirlo non vuol dire che un operaio debba vivere come un monaco o debba fare il mezzo prete, ma vuol dire che tutto quello che vive, tutte le dimensioni della sua esistenza, devono essere orientate a questo triplice fine: l'amore, l'adorazione e il servizio di Dio. In questa, cioè, cosa vuol dire? Sto facendo questa azione, d'accordo? Questa azione potrei dire al Signore: faccio questa cosa per amore tuo, per esempio. Sì o no? Se la risposta è no, questa cosa è meglio non farla. Posso dire: in questa cosa sto cercando di adorarti? Sì o no? Se è sì, la faccio, se no, non la faccio. E la stessa cosa, offro le mie azioni, cioè ho delle azioni da poter offrire al Signore. Certamente, se ho fatto un'azione disdicevole, se ho rubato, mica posso andare a dire al Signore: ti offro il furto che ho fatto, d'accordo? Non posso dire che ho fatto il furto per amore di Dio, ho fatto il furto per amore alla mia avarizia, al mio desiderio di accumulare soldi per farci chissà che cosa in maniera disonesta, d'accordo? Quindi questo vale per tutte le azioni, anche per le azioni, non soltanto per le azioni, diciamo così, oggettivamente meritorie, no? Tipo il lavoro, per esempio, tipo la dedizione alla famiglia, ai figli, ma, per esempio, sto zitto, non rispondo a un'offesa, perché? Per amore del Signore. Mi verrebbe, magari se la pure merita, non lo faccio per amore del Signore. Adorare il Signore, sempre, già altre volte ne ho parlato, imparare a lodare, benedire, ringraziare Dio qualunque cosa accade. L'adorazione a Dio va fatta anzitutto in chiesa, nell'Eucaristia, dove il Signore se lo stramette, ma soprattutto, ma anche nella vita, negli eventi che ti capitano. Perché il Signore scrive, d'accordo, con la sua penna le pagine della nostra esistenza. Le descrive però sulle nostre righe. Si dice che Dio scrive dritto sulle righe storte, perché noi scriviamo, bisogna vedere se noi, come dire, ricalchiamo la grafia divina, oppure se scriviamo gli sgorbi su cui poi il Signore deve stare sempre con i suoi interventi a cercare di correggere, di addrizzare, di riportarci, di sollecitarci, eccetera eccetera. E ricordate che anche un'azione assolutamente neutra, tu puoi fare uno sport, farlo tranquillamente uno sport, vivi con lo sport il rendimento di grazia a Dio. Ti ringrazio, Signore, che mi hai dato un fisico che si muove, ti ringrazio che mi concedi quest'ora di svago, sono andato a fare una partita a calcetto, sono andato a fare una partita a tennis, sono andato a farmi una corsa, quello che volete, d'accordo? Ma anche una cosa, cioè, l'ho detto altre volte, uno si va a fare una bella passeggiata. Impariamo ad adorare Dio nel creato, Io questa cosa è una cosa che in alcune circostanze mi capita. Io proprio amo tantissimo passeggiare in mezzo ai boschi, in mezzo alla natura. Guardare in giro, guardando le cose, dire: Signore mio, quanto sei grande, ma che cosa hai fatto? Guarda che colori, guarda che varietà di piante, guarda la bellezza che c'è anche la nostra terra. E lodarlo il Signore, perché l'ha fatte Lui queste cose. Quindi non è che... Perché noi quando sentiamo dire... Bisogna stare sulla terra solo per amare il Signore, per adorare il Signore e per servirlo. Uno comincia a pensare a una vita buia, una vita grigia, fatta solo di rinunce, di sacrifici, di cose, fermo restando che si fanno queste cose, attenzione, non fraintendiamoci, ma anche la rinuncia e il sacrificio sono atti fatti nella gioia, non nel musolunghismo, io lo chiamo, o nella brontolosi cronica. Questo non c'è niente, queste sono parodie della vita cristiana, macchiette. Allora, da dove si vede la grande virtù di San Giuseppe? E la nostra. Fin dai suoi primi anni Giuseppe era dolce e pacifico. Fino a quando non avremo raggiunto una grande dolcezza, una grande pacificità, siamo ancora molto lontani dalla santità. Perché... essere dolci sempre, quindi richiede un dominio di sé immenso. Quindi già è un miracolo se, e vi invito a esercitarvi su questo, in qualche circostanza mi verrebbe da fare chissà cosa, riesco a dominarmi e addirittura riesco ad essere non solo calmo, ma anche caritatevole, buono e dolce nel dire le cose. Quindi chiaramente il nostro progresso interiore avviene attraverso delle piccole progressive vittorie, capite? Poi, non fu mai potuto contendere con i compagni. Lo Spirito Santo rifugge dalle modalità dell'ira, della prepotenza, della prevaricazione, dell'arroganza o cose di questo genere. Poi la sua sincerità, dobbiamo imparare a essere sinceri, a rifugire, cioè vedete, tutte quante le virtù contrarie a queste cose sono tutte sataniche. Il contrario della dolcezza è l'asprezza, è Satana. Il contrario della pacificità è l'agitazione, Satana. Il re delle contese, quello che semina discordie, quello che divide, è Satana. Diabolos in greco significa colui che divide. Il padre della menzogna è Satana, e San Giuseppe era sincero. Il padre dell'impudicizia e dell'impurità in assoluto è Satanasso. E la sua modestia e il suo candore erano meravigliosi. Ecco, qui io faccio un salto e poi ritorno indietro, no? Qui avete visto che adesso si passa per una serie di elogi di virtù di San Giuseppe sulla base del modello di alcuni grandi personaggi biblici. Ci torniamo tra poco. Salto direttamente alla sezione in cui si coglie un riferimento autobiografico del Beato Bartolongo. Sapete che Bartolongo era un po' come Sant'Agostino, è stato un grande convertito, quindi è una persona che ha sciupato l'adolescenza, la giovinezza e anche parte dell'età quasi matura appresso a dei peccati molto molto gravi. E quindi poi a fronte invece di un'adolescenza illibata e perfetta come quella di San Giuseppe. Ora dobbiamo fare attenzionissima, perdonatemi l'espressione non ortodossa in lingua italiana, perché oggi più che mai i nostri adolescenti, cioè, dire che sono tartassati, dire che sono, cioè, non esiste un termine adeguato a mio avviso per esprimere i rischi devastanti che corrono in una società completamente corrotta. Ecco, e qui ci vuole una grandissima prudenza e sapienza educativa. Perdonatemi, io non lo so se questa catechesi la stanno ascoltando papà e mamma o se andrà nelle mani di qualche papà e mamma, però vi prego di fare estrema attenzione a questo, perché che facciamo con gli adolescenti oggi? Allora, questi pori ragazzi sono adolescenti come lo siamo stati noi, Quindi durante l'adolescenza si impazzisce tutto un altro il nostro mondo psicofisico, diciamo così. E sono tirati, perché tanto a scuola ci danno per forza. In Italia non esiste il diritto civile all'educazione, non esiste, che ne dicano i nostri cari politici e governanti, non è, perché se tu lo mandi alla scuola pubblica ci va quasi gratis, se va alla scuola privata te la devi pagare tu. Ora, poi il fatto che molte scuole cattoliche stiano in crisi, per cui si sa se è meglio la scuola cattolica o la scuola pubblica, questo è un altro discorso. Però io genitore non ho il diritto garantito, perché se non c'ho i soldi non lo posso fare, di scegliere quale agenzia educativa di supporto fondamentale come la scuola scegliere per mio figlio. Questo non c'è, dato che stanno a fare tante le cose, che devono fare i diritti e le cose. Questo elementare diritto civile, che io voglio che a mio figlio sia dato un'educazione secondo quello che penso. Se io sono islamico, supponiamo che in Italia ci sia una scuola islamica, non lo so se c'è, non mi interessa, ma io devo andare, io mio figlio devo andare a quella scuola e pagare la stessa identica cifra che paga nella scuola pubblica. Questo vuol dire garantire questo diritto. Così se mio figlio è cattolico, va a una scuola cattolica. Se mio figlio è testimone di Geova, o è protestante, o è buddista, non lo so, io scelgo dove mandarlo. D'accordo? Perché l'educazione di un figlio, fino a prova contraria, è affidata a me, genitore. E se io lo mando alla scuola pubblica, specialmente adesso con i programmi che stanno facendo in giro, ne ho parlato in qualche caricata settimana scorsa, non è che lo vado a far educare, lo vado a far diseducare, si va a rovinare un figlio a scuola. E quindi, purtroppo, siccome questo non possiamo esercitarlo, almeno per ora, questo diritto, adesso vediamo questi grandi governi che fanno tutti quanti le grandi promesse, che è arrivata finalmente la grande riforma dell'Italia, doveva farlo Monti, doveva farlo Letta, adesso lo fa Renzi, bah, speriamo, tutti a fare promesse e proclami di grandi provvedi, di grandi interessi degli italiani, di grandi riforme, di grandi, sto a fare niente nessuno, comunque non facciamo politica su Radio San Giuseppe, per carità di Dio. E allora i ragazzi stanno immersi in questo mondo corrotto. Quindi che facciamo? Li mettiamo dentro una campana di vetro? Io vi parlo perché la mia esperienza pastorale, ricordate sempre che un sacerdote, se sta in cura d'anima, guarda, vede, controlla, parla con le persone, sa. Allora, alcune famiglie cattoliche hanno scelto una linea apparentemente buona, ma eccessiva. Cioè, educano i figli in una maniera esageratamente rigida, esageratamente. L'effetto di questo è che un figlio, se poi tu lo sottoponi a coercizioni e ricatti continui, alla fine non c'ha alternativa. Ma guardate, accumula una tale rabbia che se poco poco quella rabbia in qualche momento gli viene fuori, questo diventa capace di qualunque cosa. Qualunque, puoi avere le mutazioni da Dr. Jekyll a Mr. Hyde, eh? Cioè persone apparentemente tranquille, perché è troppo, cioè perché questo sta in un mondo libertino e libertario, corrotto, e tu, come dire, lo poni in una forma di vita che era possibile 100 anni fa, ma che nelle circostanze concrete non è possibile. Allora, la sapienza educativa qual è? La sapienza educativa è questa, a mio avviso. Uno, motivare sempre le decisioni e gli indirizzi educativi che si danno. Motivarli, spiegare. E spiegare facendo sempre capire e far capire e percepire che si agisce per il loro bene. La prima cosa, prima ancora che spiegare, è l'amore dentro, l'amore vero. Cioè, perché i figli si accorgono se i genitori gli vogliono bene, e anche se sembra che facciano i ribelli eccetera eccetera, se un genitore gli vuole bene un figlio ne è felice, e se un genitore gli vuole bene alla lunga il figlio, anche ribelle, farà quello che gli dice il genitore, perché noi facciamo quello che ci dicono le persone che ci vogliono bene e che noi sappiamo e percepiamo volerci bene, quantomeno, anche se non lo facciamo subito, riteniamo le cose che ci hanno detto e ci pensiamo. Forse non lo facciamo subito, lo faremo tra 2 anni, ma lo faremo. Quindi, amore. 2. Spiegare, spiegare e spiegare. 3. Apertura intelligente. Che significa? Prendete adesso il mondo di internet. Tu non puoi prendere un figlio e dire computer niente fino a 18 anni. Non si può fare. Non si può. Tu dici, ma tu Leonardo non lo sai che pericolo che è internet e che cosa ci sta? Basta un click per aprire un sito porno. Ma che uno dice a me? Certo che lo so. E che gli fa fare account Facebook? Non lo sai che su Facebook c'è di tutto? Certo che lo so. Allora, tu lo accompagnerai a non stare davanti al computer. Chiede l'account Facebook, lo fa fare tranquillamente. Il nome utente e la password ce l'ha lui e ce l'ha anche papà e mamma, il quale è libero non soltanto di stringerci l'amicizia insieme, ma di andare dentro l'account a vedere tutto quello, anche nascosto, che il figlio ci ha messo, in un regime di trasparenza, motivando questa cosa. Dice, guarda figlio mio, io ti ci mando, ma siccome questo è un mondo dove ti puoi fare male, non ti ci mando da solo, vengo con te, tanto tu davanti a me non devi avere niente da nascondere. Anche sulle uscite, sulle cose, no? Io per esempio lavoro tanto con i giovani e nel lavoro pastorale per i giovani, per esempio, rientrano anche delle occasioni per offrirgli delle possibilità di sano divertimento. Per esempio in parrocchia io organizzo 2 volte l'anno un campo scuola. Il campo scuola, come dire, sarebbe l'alternativa alla gita scolastica, perché le gite scolastiche, purtroppo, a mio modestissimo avviso, perché sono stato pure io alla gita scolastica, lo so io quello che facevamo alle gite scolastiche e penso che lo sa chiunque mi ascolta ci sia andato, non è il luogo dove conservi la modestia, come lo chiama qui, e il candore. Direi proprio di no. Sono luoghi dove molto facilmente si perdono queste due virtù. Ecco, ma se tu me lo mandi in un campo scuola con un parroco e un team di formatori qualificati, io dico sempre ai genitori, dico, se il pullman va dentro un burrone non ci posso fare niente, ma che tuo figlio torna storto da un campo dove sono stato io, me la prendo io la responsabilità davanti a Dio. Non succede, non deve succedere e non succederà. Capite? Anche quindi esortandoli, motivandoli. D'accordo? Qualche uscita bisogna concederla, certamente con orario, poi i genitori devono essere intelligenti, devono trovare i modi, le forme, no? Per controllare. Insomma, io faccio il parroco, a me mi vengono di tutte le cose che succedono, no? Quindi se un genitore vuole seguirlo il figlio, quindi gli dà una fiducia intelligente, quindi non gli dice sempre di no, però fa in modo che se gli dice, se gli apre le porte della fiducia, poi trova i suoi modi per verificare se il figlio è sincero, se torna puntuale, se sta realmente nel luogo dove mi ha detto che stava, eccetera, eccetera, no? In modo tale che possa incanalarsi, cioè che non viva come un represso, ma che non, certamente con un figlio a 14 anni torna alle 4 della mattina o va in discoteca o cose di questo genere, capite il buon senso, o dei pericoli da preservare, no? La televisione va moderata, il computer va moderato, i giochi vanno moderati. Io ho sempre sconsigliato a tutti i gatti, non tenete la televisione in camera di un ragazzino, cioè che il ragazzino ha la televisione non nel senso che c'è il monitor per giocare con la Wii, ma nel senso che c'è la televisione che può smanettare col telecomando, perché alle 10 di sera, quando tu stai in camera tua e lui sta in camera sua, che guarda tuo figlio? Cioè tu gli dai l'occasione per andarsi a rovinare, no? Cioè prepari la palla al demonio, già il demonio ce l'ha pronta dalla mattina alla sera la palla oggi, no? Non gliene diamo ancora se siamo genitori attenti, no? Però non è che gli puoi mettere una cosa, quindi gli starò vicino quando guardiamo un programma, sarò io che starò attento quando c'è mio figlio a non guardare programmi, perché se io vedo un programma dove magari so che potrebbe esserci una scenaccia, perché purtroppo adesso le scenacce devono mettere pure nei film stupendi, se non ci mette qualche parolaccia, se non ci mette la scenaccia, non vanno bene. È molto difficile trovare un film punito al 100%, no? Però figlio piccolo, è meglio non farlo vedere. Lo registro, lo vedo in un altro momento, insomma, no? Quindi accertarsi, se possibile, che Cioè, certamente questo non, cioè, lo succederà anche altrove, ma noi dobbiamo aiutarli i nostri figli. Quindi, a mio avviso, l'altra parola d'ordine è sana apertura. Quindi, nell'ottica di una libertà, come dire, che venga gradualmente offerta e guidata, perché non diventi uno strumento di rovina, ma sia consapevolmente e coscienziosamente acquisita, e la persona crescendo poi impari lui a fare delle scelte motivate, fuggendo il bene, scusate, fuggendo il male, scegliendo il bene. Spero di essere stato chiaro, no? Quindi la preservazione dell'adolescenza è fondamentale, perché Bartolo Longo le andrà a raccontare, Sant'Agostino le andrà a raccontare, perché poi hanno avuto una serie di eventi che hanno portato alla conversione. Ma la conversione si può anche dire di no, e un'adolescenza violata e distrutta può comportare una vita completamente rovinata. Dopo, sì, certamente, finché c'è vita, c'è speranza, tutto quanto si può rimediare, una misericordia di Dio infinita, e non dobbiamo mai disperare, questo è certo. Però preservare l'integrità di una cosa è certamente meglio che aggiustarla dopo che si è rotta. Questo è. Nessun pazzo, penso, che dice: ma no, io che importa niente, c'ho la macchina nuova, la faccio sfracellare contro un albero, tanto poi la porto in carrozzeria e la faccio aggiustare, che problema c'è? È uguale a prima. No, non è uguale a prima, perché una macchina che si è sfracellata non è uguale a prima. Si porta sempre dietro qualche piccio, qualche problema, qualche difettuccio, qualche rumore, se tutto va bene, se non dei difetti che, per quanto bravo sia stato il riparatore, non si riescono a ripristinare al 100%. Perché è indubbio che una cosa nuova è meglio di una cosa rotta e ripristinata, no? Se ti compri uno strumento software, un computer, un telefono, un iPhone riconvenzionato, lo paghi 300 euro di meno, ma tu rischi il pericolo, perché un prodotto riconvenzionato era un prodotto difettoso che è stato ripristinato. Perché costa 300 euro di meno? Perché il difetto l'ho ripristinato, ma non è come se te lo comprassi nuovo, perché se te lo compri nuovo costa 300 euro di più, o 500 euro di più, o 1000 euro di più, a seconda del pezzo che ti devi comprare. Non so se riesco a rendere l'idea, no? Ecco, tornando indietro, fa degli accostamenti, ecco, per quanto riguarda l'innocenza e l'adolescenza, ha delle virtù che noi dobbiamo insegnare ai nostri adolescenti. La pietà di Abele, attenzione che la pietà non è intesa come la intendiamo noi, cioè avere pietà di qualcuno nel senso di essere misericordioso con le difficoltà del prossimo, non è questa la pietà biblica. La pietà di Abele, se uno apre il testo, Abele offrì sacrifici a Dio come Caino. Dio gradì i sacrifici di Abele, non gradì quelli di Caino. Caino si arrabbia, ammazza Abele e c'è il primo sangue che bagna il pianeta Terra, il sangue del fratello. Quindi la pietà vuol dire un rapporto con Dio pio, da cui da pietà deriva pio. Quindi insegnare fin da piccoli ragazzi la santa virtù di quella che si chiama la religione, cioè che Dio viene al primo posto, che Dio va adorato. Si fanno i fioretti, per esempio insegnare ai ragazzi a fare i fioretti a Gesù, alla Madonna nel mese di maggio, le piccole rinunce, arriva la Quaresima, no? Dice, ma il digiuno canonico obbliga da 18 ai 60 anni, certamente, l'astinenza della carne obbliga dai 14 anni in su, per chi non lo sapesse, però è significativo che c'è un bambino di 12 anni, cioè inizia la Quaresima è il tempo in cui si ricorda che Gesù è stato tentato nel deserto, è il tempo che culmina con la passione, Gesù ha sofferto per noi, allora facciamo qualche piccolo fioretto, qualche piccolo sacrificio da offrire al Signore, con cui noi gli attestiamo anzitutto che Lui è la cosa più importante. Quindi io, per amore tuo, sono disposto non soltanto a rinunciare alla caramella o alla Coca-Cola o a mezz'ora in più di videogiochi o cose di questo genere, ma anche alla vita, perché Dio merita tutto di noi stessi, no? Questo però chiaramente un ragazzino lo deve imparare, lo deve. Chi glielo insegna? Glielo insegnano papà e mamma, glielo insegnano, se gli danno un'educazione conveniente e consona, no? Se no, chi glielo insegna a sto povero ragazzino? Capite? Poi, l'ubbidienza di Isacco. Ecco. I ragazzi, noi dobbiamo aiutarli a riscoprire l'ubbidienza, ecco, perché i ragazzi di oggi sono molto disubbidienti. A volte, non senza la complicità di genitori un po' superficiali. Voi mi perdonerete, nel senso che a volte si assiste ad una vera e propria, come dire, io lo chiamo una sorta di fenomeno di abdicazione, cioè i genitori sono costituiti in autorità. Sì, l'autorità va esercitata, come ho detto prima, nella forma dell'autorevolezza, non della dittatura e del dispotismo, certamente, ma va comunque esercitata, cioè un figlio gli deve passare. Cioè, è come il rapporto col Padre Eterno, no? Il rapporto col Padre Eterno è un rapporto, cioè, senza dubbio, di amore, un rapporto di figliolanza, un rapporto anche di... Io posso tranquillamente, Gesù ce l'ha detto alla lettera agli Apostoli, vi ho chiamati amici, ecco, però non è l'amicone, capito? Non è il rapporto prioritario, cioè lui ti mette nella confidenza, però fondamentalmente rimane il tuo Dio, quindi è una confidenza che presuppone e richiede l'obbedienza, non è una confidenza, come dire, una amicizia becera, d'accordo? O facilona. Ecco, io penso, insomma, che posso prendermi tutte le licenze possibili e posso fare come mi pare, no? Quindi anche nei confronti di papà e di mamma, quindi anche nei confronti del rapporto genitoriale, non possiamo e non dobbiamo mai abdicare al ruolo educativo. Certamente noi dobbiamo conquistarlo anzitutto con l'autorevolezza, ecco. Però non dobbiamo da noi stessi così disarmarci con forme e stili assolutamente fuorvianti e inopportuni, no? Poi c'è la saggezza di Tobia. Tobia è un altro grande personaggio biblico. E la saggezza negli adolescenti si manifesta attraverso quella che noi chiamiamo oggi la giudiziosità, un adolescente giudizioso, cioè che impara presto a non fare capricci e impara presto, pur nel suo piccolo, a fare i suoi piccoli discernimenti circa le cose da fare, le cose da non fare, le cose opportune, le cose non opportune, le cose da preferire, le cose da non preferire, eccetera, eccetera. Anche su questo lui ha bisogno dell'aiuto dei genitori. E poi infine la fermezza di Daniele, della castità abbiamo già in parte parlato, la fermezza di Daniele. Daniele, personaggio biblico straordinario, insomma, da approfondire, davanti al re che gli ordinava di adorare la statua, c'era Nabucodonosor, lui dice: "Non adoro proprio nessuno, io adoro il mio Dio, punto e basta." E si era andato una volta con gli altri compagni nella fornace ardente, un'altra volta nella fossa dei leoni, Daniele profeta, no? Quindi ha pagato, diciamo così, non poco il prezzo di questa sua fedeltà, no? Ecco, ed è rimasto in ogni caso integro e fedele a Dio. Concludo facendo un piccolo riferimento, perché vedo che, come sempre, il tempo è oltremodo volato, all'ultimissima cosa, alla fedeltà di San Giuseppe, definito uomo giusto perché osservava religiosamente tutto ciò che la legge comandava, rendendo a Dio e agli uomini tutto ciò che era loro dovuto, in un atteggiamento di assoluta fedeltà. Cioè, Dio, cioè San Giuseppe, scusate, non ha tradito la fiducia che Dio riponeva in lui. Ora, come fa Dio a manifestarci i suoi voleri? Non soltanto attraverso l'osservanza dei comandamenti, l'obbedienza ai genitori quando siamo piccoli, eccetera, ma anche attraverso le prime ispirazioni. Poi dovete sapere, ci sono alcuni fanciulli che sentono a tenerissima età la vocazione a diventare preti. Ci sono dei fanciulli che fin da piccoli sentono le vocine interiori di darsi a Gesù, di dire la preghierina, di fare la preghiera in più, di fare il fioretto in più, eccetera, eccetera. Allora, più bisogna abituarsi, piccoli e grandi, a farsi attenti alle divine ispirazioni, perché lo Spirito Santo ci parla nel cuore, con la sua voce dolce e delicata, rispettando però sempre la nostra libertà. Solo che ogni no che noi diciamo a Dio sono grazie perdute. Ogni sì che noi diciamo a Dio sono grazie acquisite. È fondamentale nella nostra esistenza imparare a dire a Dio tanti sani sì e preferibilmente di non dire a Dio mai di no. Disposizione che San Giuseppe ha avuto. Io vedo che il tempo è trascorso, vorrei aggiungere qualche altra cosa, ma forse penso che è il caso di fermarci. Vorrei concludere però riprendendo e ribadendo un monito del beato Bartolo Longo: quante volte dalla fedeltà ad una minima grazia dipende la nostra salvezza. Un'ispirazione, un pensiero che ti manda a Dio, non essere troppo facile a mandarlo via, perché potrebbe essere ispirazione da cui dipende la tua salvezza. Vi do appuntamento, se credete, la settimana prossima con la mia benedizione. Ave Maria.